Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Fino a qualche giorno fa avrei detto 14esima stagione di Eclettica, ora invece dico ultima stagione di Eclettica, ma intendo ultima su Rock FM, perché è Rock FM che è destinata a chiudere nel giro di qualche settimana, come vi ho già detto anche ieri sera. Rock FM a cui abbiamo dedicato tanto tempo, tanta passione, e non sto parlando solo di noi da questa parte del microfono, ma sto parlando ovviamente anche di voi dall'altra parte. Quindi con Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, ancora per qualche settimana. Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. Nel segnale pedonale comparve la sagoma dell'omino verde. La gente in attesa cominciò ad attraversare la strada camminando sulle strisce bianche dipinte sul nero dell'asfalto. Non c'è niente che assomigli meno a una zebra, eppure la chiamano così. Gli automobilisti, impazienti, con il piede sul pedale della frizione, tenevano le macchine in tensione, avanzando, indietreggiando, come cavalli nervosi che sentissero arrivare nell'aria la frustata. Ormai i pedoni sono passati, ma il segnale di via libera per le macchine tarderà ancora alcuni secondi. C'è chi dice che questo indugio, in apparenza tanto insignificante, se moltiplicato per le migliaia di semafori esistenti nella città e per i successivi cambiamenti dei tre colori di ciascuno, è una delle più significative cause degli ingorghi o imbottigliamenti, se vogliamo usare il termine corrente della circolazione automobilistica. Finalmente si accese il verde. Le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte quante. La prima della fila di mezzo è ferma. Deve esserci un problema meccanico. L'acceleratore rotto, la leva del cambio che si è toccata, un'avaria nell'impianto idraulico, blocco dei freni, interruzione del circuito elettrico, a meno che non le sia semplicemente finita la benzina. Non sarebbe la prima volta. Il nuovo raggruppamento di pedoni che si sta formando sui marciapiedi vede il conducente dell'automobile immobilizzata sbracciarsi dietro il parabrezza, mentre le macchine appresso a lui suonano il clacson freneticamente. Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l'automobile in panne fin là dove non blocchi il traffico. Picchiano furiosamente sui finestrini chiusi. L'uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato. Si vede che urla qualche cosa. Dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola. Non una, due. Infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello. «Sono cieco!» Questo era l'incipit di «Cecità» di José Saramago. Thank you. translator? Forgive my speaking of English, Jonathan, as I'm not so premium with it. I'm going to Hollywood, Babylon. Action, going to get me some. Watch my name, y'all, on the screen. And always, at the end I win. Red carpet, cocktails. Cadillac cars, put you got girls. Candy, stains of ice cream. And when I talk, violins. And they do something like this. Now put your hands up, y'all. Here I am. Hang him high. Shoot them. One bullet, kill them all. The enemies of the Hollywood Babylon law. Gangsters, Indians, Rastas, Reds, Arabians, Martians, Fox, Japanese, Mexicans, Chinese. Put your hands up, y'all. Here I am. Hang 'em high, shoot 'em. One bullet, kill 'em all. Enemies of a Hollywood Babylon. I'm going to Hollywood Babylon. God to get me some. It's more fun, y'all, on the screen. 'Cause always, at the end I win. And it does something like this. Yes, it does something like this. Eclettica quest'oggi si è aperta con una delle canzoni preferite del momento, delle mie preferite del momento, Get Well Soon, questo è il nome del gruppo berlinese con I Sold My Hands For Food, So Please Feed Me. E poi è stata Francia con Don Cavalli, New Hollywood Babylon, e questo è il titolo del pezzo. Prima di andarcene negli Stati Uniti ad Athens, per la precisione vi voglio ricordare sia l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, ne avrete di cose da dire vista le notizie che vi stanno arrivando a riguardo di Rock FM, quindi scrivete e alcune delle vostre parole diventeranno sicuramente parte di Eclettica nelle prossime settimane, le ultime che vedranno questa trasmissione presente su queste frequenze. Poi emigreremo da qualche altra parte, questo ve lo assicuro. E anche il podcasting che vi permette di riascoltare in differita nel caso vi perdiate la diretta, l'intera trasmissione. I dettagli su myspace.com/eclettica, che è anche il sito da mantenere come riferimento una volta che verranno tirate giù le saracinesche della radio. Vi dicevo Athens in Georgia, da cui proviene una band il cui nome è Dark Meat. Io ho scoperto solo ora il loro album di debutto, che è uscito a fine 2006, e non mi faccio certo problemi a trasmettervelo come se fosse una novità, perché per quanto riguarda me una novità lo è. Dark Meat, che hanno inciso un album d'esordio dal titolo Universal Indians, che sono una formazione che pur essendo evidentemente rock, però ha come guida spirituale Albert Tyler, il sassofonista free jazz, e in questo disco suonano circa 30 strumentisti, quindi un muro di suono notevole e anche un inizio particolare prima di arrivare a quel muro di suono per quanto riguarda la canzone che io ho scelto, un inizio a cappella. As I pass Sopra la cornice della porta c'è una placca metallica, lunga e stretta, rivestita di smalto. Su sfondo bianco le lettere nere annunciano Conservatoria Generale dell'Anagrafe. Lo smalto è crepato e sbrecciato in alcuni punti. La porta è antica, l'ultimo strato di vernice marrone si sta scrostando. Le venature del legno visibili ricordano una pelle striata. Ci sono 5 finestre sulla facciata. Appena si varca la soglia si sente l'odore della carta vecchia. Certo è che non passa giorno senza che in conservatoria entrino incartamenti nuovi, degli individui di sesso maschile o di sesso femminile che fuori continuano a nascere. Ma l'odore non cambia mai. In primo luogo perché il destino di ogni foglio nuovo, subito dopo l'uscita dalla fabbrica, è quello di cominciare a invecchiare. In secondo luogo perché, di solito più spesso sui fogli vecchi, ma tante volte su quelli nuovi, non passa giorno che non si scrivano cause di decessi e relativi luoghi e date, ciascuno apportando i propri particolari odori, non sempre offensivi per le mucose olfattive, come dimostrano certi effluvi aromatici che di tanto in tanto, impercettibilmente, attraversano l'atmosfera della conservatoria generale e che i nasi più fini identificano come un profumo composto metà di rosa e metà di crisantemo. Questo era l'incipit di Tutti i nomi di José Saramago. Try till I was